52. Zuppa di gamberi col sugo di carne. Prendendo per norma una zuppa che dovesse servire a sole 4 persone, bastano grammi 150 di gamberi. Lavateli e metteteli al fuoco con 2 ramaiuoli di brodo. Cotti che siano, levateli asciutti e nel liquido che resta sciogliete grammi 30 di midolla di pane soffritta nel burro. Per bagnarli quando li passerete dall'ostaccio dopo averli pestati nel mortaio. Estrattane così tutta la polpa, unitela a sugo di carne come quello della ricetta numero 4 e se non lo avete in cucina potete farlo con soli 100 grammi di carne adatta per quell'uso. Mescolate ora questo composto al resto del brodo per bagnare la zuppa, che può essere di pane semplicemente arrostito o a dadini, fritto nel lardo o nell'olio. Servitela con parmigiano grattato.